Corsa 24, i gialli della storia. Era la scia di una cometa. Lui era un uomo Dio. Bob Marley non è solo musica, è la voce di chi non può urlare. Chi soffre nel mondo trova in Bob Marley la forza. Marley aveva una visione comunque molto chiara di quello che doveva fare. L'11 maggio del 1981 in un ospedale di Miami muore a soli 36 anni Bob Marley. Una morte prematura che stronca l'ascesa della prima rockstar che viene dal terzo mondo. Ambasciatore nel mondo del reggae e della spiritualità rasta. Ma Marley è stato molto di più che un cantante, molto di più di una rockstar. Dalla Giamaica, infatti, la sua voce è diventata un simbolo di emancipazione per tutti gli oppressi. E la Giamaica onora il suo figlio prediletto con un funerale di Stato. È il 21 maggio dell'81. Noi oggi a Mix24 vogliamo raccontare la storia di questo artista straordinario con le testimonianze e i commenti di amici, conoscenti, gente comune che lo hanno ammirato, stimato e condiviso le sue scelte, oltre alla voce del suo biografo, Chris Salevgic, e i giornalisti Alberto Castelli e Gino Castaldo. Non so, era come una pandemia, oppure il carnevale. Tutta la Giamaica si era riversata in strada. Io mi ricordo ogni secondo di quel giorno. Dalla Germania arrivò la notizia che Bob era morto. Dicevano tutti che aveva il cancro. Hanno creduto che fosse morto. Ma Bob Marley non è morto. Se n'è solo andato. I was responsible. Io organizzai il suo funerale. Il primo ministro della Giamaica aveva disposto un funerale di Stato. C'erano tante persone di ogni cultura e strato sociale. Ricordo di avere pensato, solo Bob Marley poteva riuscire a unire tutte queste persone, queste diverse fazioni, per celebrare la sua vita. La straordinaria storia di Bob Marley finisce prematuramente lunedì 11 maggio 1981. Ma la strada che lo ha portato alla consacrazione nell'Olimpo della musica comincia in salita. Marley nasce dall'unione scandalosa e peccaminosa tra una giovane donna nera giamaicana e un anziano ex colonnello dell'esercito inglese in pensione. Era un'unione che provocava scandalo all'interno delle due comunità, sia all'interno della comunità bianca e sia all'interno della comunità nera. Era quindi figlio del peccato in un certo senso. Mio padre è bianco, mia madre è nera. Mi considerano un emarginato. Io non sto dalla parte di nessuno, né dei neri né dei bianchi. Io sto dalla parte di Dio. Bob Marley sconta un'infanzia traumatica, difficile e dolorosa, segnata dalla mancanza del padre, dal precario rapporto con la madre, spesso assente. Eppure fin da piccolissimo la sua sensibilità lo porta ad assorbire gli stimoli più diversi. Da una parte le antiche tradizioni animistiche che gli schiavi hanno portato dall'Africa, dall'altra il cristianesimo portato dal dominio coloniale, dall'altra ancora il rapporto con un nonno materno che, dicono, ha poteri eccezionali in grado di neutralizzare gli influssi negativi, e in Giamaica si dice anche che lo stesso Bob ne ha ereditato i poteri. Robert Nesta Marley nasce il 6 febbraio 1945 a Nine Miles, in Giamaica, e cresce in una delle zone più povere, remote e sperdute dell'isola. Quando si va a Nine Miles, insomma, dove lui era cresciuto, dove c'era la sua prima casetta e poi dove è stato sepolto, beh, sì, è proprio un viaggio. E quindi anche quella è un'esperienza strana, perché io non immaginavo così spoglio, così misero, non c'è nulla. È come andare veramente nel cuore di tenebra di Conrad, cioè dentro, in una giungla quasi, no? Quindi immaginare che Marley sia cresciuto lì, fa capire un sacco di cose. Nel cuore della Giamaica, le antiche credenze animistiche sono profondamente radicate e pervadono la vita semplice dei villaggi rurali. Marley amava la campagna, amava guardare la natura, gli alberi. La capiva la natura, così come capiva gli animali. Uno dei suoi primi lavori da bambino, prima di andare a scuola, era mungere le capre. Già da piccolissimo, Bob Marley era chiaramente in contatto con le forze mistiche della natura. A soli 3 anni sapeva leggere la mano e sapeva leggere anche il futuro. Ed era bravissimo. Le cose che lui vedeva succedevano davvero. Un'infanzia traumatica e ripetuti abbandoni contribuiscono a sviluppare nel piccolo Marley una sensibilità fuori dal comune. All'età di 5 anni, Bob fu portato dal padre a Kingston e abbandonato presso una certa Miss Gray. Il padre non andò più a trovarlo e solo quando la madre lo ritrovò, un anno dopo, poté riportarlo via con sé. Nel 1957 Bob Marley si trasferisce con la madre a Trenchtown, una delle zone più dure di Kingston. Presto la madre lascerà la Giamaica per trasferirsi negli Stati Uniti. Così Bob, privo di una guida, impara a vivere nella miseria del ghetto, tra vita di strada e violenza. Di notte, al lume di una lanterna ad olio, studiavano i libri per imparare a suonare la chitarra. E Tartar girava le pagine del libro, i fogli, come era solito chiamarli Tartar, mentre Bob suonava, si esercitava. La canzone No Woman No Cry è stata scritta qui, esattamente in questo cortile. C'era questa donna che abitava laggiù e mentre Bob e Tartar stavano scrivendo questa canzone, venne la polizia e le portò via il figlio. La donna cominciò a piangere. Ecco come nacque il verso No Woman No Cry. No, donna, non piangere. Vedrai che tutto andrà per il meglio. In quei tempi vivevamo a Trenchtown con la mia chitarra acustica a casa nostra. Nel cortile fumavamo marijuana, ce ne stavamo lì a pensare e chiacchierare e la musica cominciava a risuonare, tutti apportavano il loro contributo. A volte uno sconosciuto ti sentiva cantare e ti diceva: cantala così, mettici queste parole. E così è sempre un popolo, è un popolo che forma un insieme. Il 6 agosto del 62 la Giamaica, dopo più di 4 secoli di dominazione, ottiene l'indipendenza. È una conquista ottenuta senza spargimento di sangue e che dà il via a un grande fermento culturale. Infatti, se da sempre la musica è l'espressione di qualunque popolo, in questi anni in Giamaica nascono nuovi generi, nuovi stili, destinati a influenzare tutta la musica di fine secolo, a cominciare dal reggae. Ma come nasce questo ritmo così ipnotico e seducente? Non avevamo i soldi per comprare i dischi, perciò ascoltavamo la radio e sentivamo tutto quello che passavano. Dalla contaminazione tra la musica tradizionale dell'isola e i ritmi del blues, del rock e del soul, nasce un nuovo genere, lo ska. Dall'evoluzione della battuta in levare, tipica dello ska, si svilupperà il reggae. Ma sulla nascita del più famoso ritmo caraibico circolano molte leggende. Quella del 1966 fu un'estate terribilmente calda in Giamaica. E lo ska era una musica talmente veloce che i ballerini non riuscivano a seguire un ritmo così veloce. E le persone avevano bisogno di una musica più lenta. Ecco come nacque il rocksteady. Alla fine degli anni 60 il ritmo diventò ancora più lento, il basso diventò ancora più importante, ancora più centrale. È una musica che si è evoluta negli anni, fino a quello che oggi chiamiamo reggae. Ancora oggi il reggae risuona nelle strade di Trenchtown ed è proprio in quelle strade che Bob conosce Bunny Wailer e Peter Tosh. È l'inizio di un'amicizia, di un sodalizio artistico che farà la storia della musica. Gli Wailers si sono formati intorno al 1960. Abbiamo provato per 3 anni. Il primo disco è del 1963. A quel tempo c'erano Beverly Kelso, Shirley, Peter, Bunny e io. Era fantastico. Era la prima esperienza con la musica e lavorando con grandi musicisti cercavamo di trovare le giuste armonie. Nei primi anni 60 gli Wailers passano le giornate in quella che verrà definita l'università del reggae, Studio One, la mitica sala di registrazione da cui sono usciti tutti i più grandi talenti della musica giamaicana di quegli anni. Penso che Marley in quel periodo abbia trovato se stesso. Non sorprende che allora gli Wailers abbiano iniziato ad esibirsi in pubblico. L'anno dopo uscì Simmerdown, che vendette 60.000 copie e fu un grande successo. Negli anni in cui gli Wailers iniziavano ad incidere i loro primi brani, nelle zone più dure di Kingston si fanno strada i Rude Boys, bande di giovani che, vestiti come gli eroi del soul, vivono in strada tra crimine ed espedienti. I Rude Boys amano la musica e le scatenate notti al ritmo dello ska. Il primo successo di Bob Marley, Simmerdown, si rivolgeva direttamente ai Rude Boys. Il messaggio era: calmatevi e smettetela di comportarvi così. E così Bob e The Wailers diventarono una sorta di gruppo di riferimento dei Rude Boys. All'inizio degli anni 60, Bob Marley conosce Rita Anderson, una giovane cantante di origini cubane di cui presto si innamora. Nel 1966 Marley la sposa. Dall'unione nasceranno 3 figli. Gli Wailers ormai sono famosi in Giamaica, ma nonostante il loro successo, si tratta sempre di un mercato discografico molto ristretto e in mano a produttori senza scrupoli. Bob Marley inizia a coltivare un sogno: aprire una sua casa discografica per produrre e distribuire autonomamente la sua musica, senza dipendere più dai produttori dell'isola. L'unico modo per farlo era andare in America e guadagnare abbastanza soldi per fondare una sua casa discografica. Andò a lavorare agli stabilimenti della Chrysler nel Delaware, dove faceva il turno di notte. Marley incrocia i profondi cambiamenti dell'America di fine anni 60. Al ritorno dagli Stati Uniti, grazie ai soldi messi da parte, riesce a coronare il suo sogno. Apre una sua casa discografica, ma si tratta ancora di un'iniziativa locale. La sua musica resta confinata al solo mercato giamaicano. Intanto però, nelle zone più povere di Kingston, sta prendendo piede il movimento Rasta e l'incontro con questa filosofia diventerà una delle fonti più profonde di ispirazione per la musica di Bob Marley. Molte delle usanze praticate dai Rasta sono un'interpretazione degli scritti della Bibbia. Ad esempio, l'utilizzo rituale della marijuana, che i Rasta credono essere una pianta sacra dalle origini leggendarie, di cui si troverebbe traccia addirittura sulla tomba di Re Salomone. La marijuana è una pianta. Voglio dire, le erbe sono buone per curare tante cose. Perché? Perché tutte queste persone che vogliono fare del bene a tutti e che si autodefiniscono governi, perché dicono che non devi usare l'erba? L'incontro e l'adesione a questa spiritualità è fondamentale anche per Bob Marley. Il rastafarianesimo lo ricongiunge al mondo arcaico della sua terra e alla memoria della schiavitù. Non ho religione, io sono come sono e sono un rastaman. Non si tratta di religione, questa è la vita. Se in Giamaica la popolarità di Marley è in continua ascesa, al di fuori dall'isola la sua musica è sconosciuta. Nel 73 è a Londra con il suo gruppo ed è un momento di grande difficoltà, al punto che sta pensando di lasciare la musica. Ma un giorno incontra un produttore musicale, un giamaicano di origine inglese, sarà la svolta decisiva. Si potrebbe dire che Marley era l'uomo giusto al momento giusto, ma si potrebbe anche dire che i tempi erano maturi per uno come lui. Salirono sul terrazzo dello studio di registrazione a Basin Street, nel quartiere di Notting Hill, dietro Portobello Road. Si fumarono una canna e discussero di cosa fare. E Blackwell gli disse: guardate, vi do 4.000 sterline per andare in Giamaica e incidere un disco. Catch a Fire fu un disco epocale. Quando gli Wailers suonarono per presentarlo, fu qualcosa che non si era mai sentita prima di allora. Alla fine del concerto, la musica ti aveva preso completamente. Il punto è che Blackwell aveva capito come potevi lanciare sul mercato gli Wailers, nello stesso modo in cui Jimi Hendrix era stato venduto al pubblico bianco del rock. Grazie a Blackwell, le parole e la musica di Marley si diffondono oltre i confini della Giamaica. D'improvviso risuonano in ogni angolo del pianeta. Una serie innumerevole di concerti, un tour dietro l'altro. Bob Marley è infaticabile. Vive il suo lavoro come una missione che lo porta ad esibirsi nei 5 continenti calcando i più importanti palchi di tutto il mondo. Neville Garrick appunto usa questa definizione: noi partivamo in missione per conto di Dio, non era semplicemente un tour. Marley era uno di quelli che avevano, e sono poi predestinati, no? Aveva una visione comunque molto chiara di quello che doveva fare e che doveva fare, ripeto, non poteva fare, doveva. Gli anni del successo, accanto a Bob Marley sul palco c'è la moglie Rita. È una delle coriste degli Wailers. Ma il fascino di Marley è magnetico e lo porta ad avere numerose relazioni anche al di fuori del matrimonio. Marley avrà 13 figli da 8 donne diverse. A questo punto Bob Marley è una rock star a livello internazionale. La sua musica ha conquistato il mondo e i suoi concerti registrano il tutto esaurito in tutto il mondo. È un mito vivente del suo tempo e, come sempre, si fa fatica a capire chi era davvero l'uomo dietro il mito. Chi veniva qui e aveva fame, Bob Marley gli dava da mangiare. E questo è mio fratello, Bob Marley. Negli anni d'oro della carriera e della vita di Marley, in Giamaica si calcola che c'erano almeno 3.000-4.000 persone che vivevano grazie a lui. Bob era una di quelle persone che alla fine di un concerto andava magari da uno sconosciuto, il primo che trovava, e gli chiedeva: come ho suonato? Sono andato bene? Ha fatto una cosa dopo l'ultima intervista, una cosa che mi ha davvero toccato. Ero all'aeroporto, dovevo andare a New York e ho posato a terra la valigia con sopra il cappotto. E Bob Marley, superstar di fama mondiale, prende valigia e cappotto e li mette all'ombra per non farli scolorire dal sole. E credo che questo dia un'idea di che uomo era. Il reggae esiste da sempre, ma quello che rende così importante questa musica sono le parole. Capire i testi è indispensabile. Le parole hanno un significato. Magari c'è gente che sa di cosa parlano quei testi, gente invece che non si è mai trovata in situazioni simili. Ma c'è moltissima gente che soffre. Il popolo soffre. E questa musica deriva dal popolo. Lui ha fatto sì che i neri fossero consapevoli. Parlava di emancipazione. Vedi, dei diritti della povera gente. La maggior parte delle sue canzoni parla di questo. Parla di uguaglianza, di educazione. I suoi testi ti insegnano a leggere, a scrivere. Per me non è importante la mia vita, ma quella degli altri. La mia vita è importante solo se posso aiutare molte persone. Se la mia vita sono io e la mia sicurezza, io non la voglio. La mia vita è per la gente. Io sono questo. Bob Marley ha detto una cosa riguardo ai suoi desideri, a quello che avrebbe voluto personalmente. Io ho una sola aspirazione, una sola cosa vorrei vedere avverarsi. Mi piacerebbe vedere l'umanità vivere insieme. Neri, bianchi, cinesi, tutti. Questo è quanto. Con la sua musica e le sue parole, Marley conquista un seguito sempre più ampio. È ormai un simbolo, ma anche un personaggio scomodo, tanto che attira l'attenzione della CIA. Nel dicembre del 76, Bob Marley è in Giamaica, dove vuole esibirsi per la sua gente. Il suo concerto rischia di essere strumentalizzato per le imminenti elezioni politiche, ma qualcuno fa di tutto per evitare quell'esibizione. Scendeva la sera e Bob Marley, nel retro del cortile al 56 di Hop Road, stava sbucciando un frutto. Il manager di Bob, Don Taylor, stava sulla porta. Tre uomini armati di pistole iniziarono a sparare all'impazzata. Don Taylor venne colpito da diverse pallottole. Rita stava scendendo dal suo maggiolino quando le spararono attraverso il finestrino e una pallottola le scalfì il cranio. Una pallottola sfiorò il petto di Bob e gli si conficcò nel braccio. E quella pallottola non fu mai rimossa, è rimasta con lui tutta la vita. Bob viene portato tra le montagne a Strawberry Hill, una proprietà di Chris Blackwell. È nascosto lì. Ma lui accetta di partecipare comunque al concerto. Lui farà questo concerto. Cerchiamo davvero di portare la pace. Sappiamo che non si risolvono i problemi con la guerra. Che cosa si risolve uccidendo qualcuno? A chi risolvi un problema uccidendo qualcuno? Capisci quello che dico? Davvero, io credo che l'unica soluzione sia la pace. All'apice della sua carriera, Bob Marley arriva in Italia con quello che sarà il suo ultimo tour. Di lì a poco il tumore che lo devasta gli impedirà di suonare. È il 27 giugno dell'80, Marley si esibisce allo stadio di San Siro davanti a 100.000 spettatori. Come se Marley invocasse degli spiriti particolari della musica e che il concerto riuscisse a evocarli, quindi poi l'esperienza che faceva era un'esperienza di trance empatico, no? con la musica che accadeva, e questa era una qualità che quel momento aveva solamente Marley. Grandi del rock non avevano questa capacità, perché non venivano da tradizioni del genere. E cioè la cosa di essere quasi uno spirito ancestrale si percepiva perfettamente. Marley era antichissimo, sembrava avere 3.000 anni quando cantava. Ma allo stesso tempo parlavamo e parlava alla gente di oggi. Bob Marley è ormai una star universalmente affermata e dappertutto è un simbolo dell'aspirazione ad un mondo più giusto. Nel 1977, a Parigi, durante una partita di calcio, in seguito all'ennesimo incidente al piede, viene portato in ospedale. Visitandolo, i medici riscontrano la presenza di cellule cancerose. Bob Marley è affetto da una forma incurabile di melanoma al piede destro. Bob si era fatto male a quel piede diverse volte. Sembra esserci stato un amaro gioco del destino, non so. Ma quel piede era il suo tallone d'Achille. Proprio come nella mitologia greca. Quello era il punto debole di Bob. Se lo avesse saputo prima, che so, forse avrebbe ricoperto il piede di criptonite per proteggerlo. Quello era il suo punto debole. Just you and me, let's stir it up. Hanno collaborato i Gialli della Storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.